Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti. In estate ci sono molte questioni stagionali da affrontare e ci rendiamo conto che le due spese delle quali parleremo oggi per molte famiglie non rappresentano esattamente una priorità, ma magari c'è chi ha in programma di fare questo investimento anche alla luce della recente conferma degli incentivi fiscali per le ristrutturazioni e per i lavori per la riqualificazione energetica della casa. Allora, di cosa parliamo? Con il caldo in molti stanno investendo nell'installazione di un condizionatore. C'è invece chi può permettersi una lunga vacanza, ma non vuole lasciare incustodita la sua abitazione e sta invece preventivando di installare un impianto antifurto. Allora, io non mi intendo tecnicamente di questi lavori, ma il primo suggerimento che mi sento con un po' di buon senso di dare, appunto, lo voglio dare ugualmente. Non fate questi lavori in emergenza, perché il furbo che se ne approfitta è sempre in agguato. Quindi, se vi venisse in mente oggi, con il caldo torrido che è in arrivo in tutta Italia da qui alla prossima settimana, fate maggiore attenzione. Se vi venisse in mente oggi, appunto, di fare questi lavori, fate maggiore attenzione, perché mediamente risolvere un problema in emergenza costa sempre di più. Quindi, per spendere la cifra giusta, intanto ricordate che questi lavori vanno fatti con calma e analizzando consigli e preventivi diversi. E poi bisogna scegliere anche il professionista giusto. Come facciamo ad individuarlo? Ci sono tante cose da affrontare stamattina. Allora, per rispondere a tutte le domande su questo argomento, condizionatore o antifurto, spesa fatta o da fare a casa vostra, e se l'avete fatta, quanto avete speso o quanto avete intenzione di spendere. Con noi quest'oggi Paola Guidi, collega delle Sole 24 Ore, collaboratrice del Sole 24 Ore, esperta su queste tematiche. Paola, buongiorno e bentornata. Buongiorno e ciao a te, buongiorno a tutti. Saluto e ringrazio Luca Falco, presidente dei bruciatoristi manutentori di Confartigianato. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno anche a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E siamo in attesa anche di collegarci con un altro ospite, che è Franco Del Conte, vicepresidente di AIPROS, l'Associazione Italiana Professionisti della Sicurezza. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande. Se volete intervenire in diretta, in alternativa ci potete scrivere al 349 238 6666, ci potete scrivere al nostro indirizzo di posta salvadanaio@radio24.it, scriveteci se volete su Facebook, il nostro profilo, sempre più ricco di persone che ci seguono, è salvadanaio-radio24, oppure potete anche seguirci come follower su Twitter, e naturalmente l'indirizzo e il riferimento è sempre lo stesso, @salvadanaio24. Prima di tutto questo, però, andiamo un po' a vedere oggi cosa succede in borsa. Allora, abbiamo avuto una buona notizia dalla Germania: cresce la fiducia degli imprenditori misurata dall'indice IFO, a luglio 106,2 punti, è migliorato in particolar modo l'indice che misura la situazione corrente. Però ecco, questo dato macroeconomico oggi non serve alle borse europee, perché sono tutte in negativo, hanno deciso di stare in questo territorio da stamattina e hanno nel corso delle ore ampliato i loro ribassi. Parigi sta perdendo lo 0,94%, Francoforte meno 1,17%, Londra è in ribasso dell'1,04%, Milano meno 0,94%. Continuano ad arrivare anche le trimestrali. Stamattina dalla Svizzera sono arrivati i risultati di Credit Suisse per il secondo trimestre dell'anno, utile netto in rialzo del 32%. Ieri sera sono arrivati dagli Stati Uniti i dati di Facebook. Gli introiti pubblicitari generati appunto dalla società sono andati nettamente migliore delle attese di mercato. Il gruppo, nella sessione after hours, cioè a mercati chiusi, nella sessione appunto in serata, è cresciuto del 20%, e quindi oggi immaginiamo che possa replicare anche nella seduta ordinaria. E però qual è la notizia che deprime i mercati? La conosciamo bene, quella che deprime sicuramente Piazza Affari. Ieri Standard & Poor's ci ha rifatto un altro regalo estivo e ha tagliato il rating, il giudizio, su 18 banche italiane. Fra queste non ci sono le big, Unicredit ed Intesa San Paolo, ma ci sono praticamente tutte le altre, e di conseguenza tutti i titoli sono in forte vendita oggi a Milano. La Popolare dell'Emilia Romagna perde il 4%, UbiBanca meno 3,36, in calo anche Prismian, vuol far compagnia alle banche, meno 3,17, Banco Popolare meno 3, Popolare di Milano, -2,45. Chi si salva dalle vendite? Chi aveva perso molto negli ultimi giorni? STM rimbalza dell'1,30%, oggi va bene Mediobanca, +0,8%, Tozze +0,7%. L'euro sul dollaro è a 1,31,85. Oggi dagli Stati Uniti aspettiamo i dati sugli ordini di beni durevoli in giugno e i sussidi settimanali di disoccupazione. Per la borsa è tutto il tema di oggi. Oggi parliamo di installazioni estive, non artistiche, ma quelle più utili. Parliamo del condizionatore d'aria, molto utile perché sta arrivando il caldo torrido, ma anche l'antifurto, perché chiaramente vogliamo lasciare la nostra casa in sicurezza qualora ci dovessimo allontanare per un po' di tempo. Ma in realtà questo serve anche se ci allontaniamo per pochi minuti, perché insomma i ladri sono sempre più sofisticati e riescono qualche volta ad entrare e a pizzicarci anche se ci allontaniamo per poco. Sentiamo un po' che film abbiamo scelto per introdurre la nostra trasmissione di oggi. Mettiti questa, ma io faccio il palo. Ma che mi lasci da solo, dai? Io faccio il palo. Mettiti questa, 5 minuti è fatta. Ma che vergogna però, Vieni, vieni, dammi una mano. Che devo fare? Dammi una mano, aiutami. Aiutami. Ma devo proprio entrare. Dai, vieni dentro. Ha detto la prima porta a sinistra. Vabbè. C'è una scatola. Dai. Bottoni. Bottoni. So bottoni. So bottoni. C'è un'altra. Ma questa è una che vive di pensione, la pensionata. Aspetta. Abbiamo sbagliato casa. Aspetta. Abbiamo sbagliato casa. Abbiamo sbagliato casa. Una padella. Ma poi c'è pure il pappagallo, c'è. Magari vedo, ma che ne sai? Ma no, ci sarà l'invalida, dai. C'è un'altra scatola, c'è un'altra scatola. Michele, è cascato qualcosa. Oddio, i ladri! Tutti i cassetti aperti, la roba per terra! Come sono entrati? Michele! Michele! Michele, corri! Ma sono entrati i ladri! Ma che c'è l'ubelo? Ma come hanno fatto a entrare? Mamma mia! Non c'è niente noi, ma che c'è l'ubelo? Allora, i ladri in questione erano totalmente improvvisati, però hanno fatto spaventare lo stesso i vecchini che occupavano naturalmente la loro casa. Posti in piedi in paradiso, un film del 2012, diretto, sceneggiato e interpretato da Carlo Verdone, si racconta la storia di tre amici, Ulisse, Fulvi e Domenico, stimati professionisti che in seguito a sventurati eventi che pregiudicano drasticamente la loro vita professionale e personale, si improvvisano naturalmente topi di appartamento e non riescono appunto a arrivare alla fine del mese, per cui si inventano qualche cosa per poter sbarcare il lunario. In realtà vorrebbero compiere un furto nell'appartamento di una ricca signora, sbagliano però la finestra e si ritrovano a svaligiare la casa di due poveri pensionati. Allora, tutto questo, Paola Guidi, ancora buongiorno, per darti un po' il là, per introdurre il tema di oggi, parlando appunto della sicurezza delle nostre abitazioni. E la crisi, per la verità, ha reso un po' diversi rispetto al passato anche i furti, no? E le rapine nelle case delle famiglie italiane. Sicuramente, perché sempre più ci sono bande improvvisate e ladri improvvisati, sono come quello famoso della canzone degli Annacci, faceva il palo nella banda dell'Urtiga, che tutti ricordiamo, ma dovuto al fatto che la grave crisi economica ha fatto aumentare ma di parecchio i furti, i piccoli furti nelle case anche dei quartieri più disagiati, addirittura con ripetizioni nelle stesse case, quindi proprio perché c'è dietro un problema sociale molto grave. Quindi i microfurti richiedono, non richiedono grandi protezioni, ma perlomeno accortezza e soprattutto meno distrazione. Certo. Possibile. Senti, quanto spendono mediamente, se abbiamo un dato riferito a questo, le famiglie italiane appunto per installare degli apparecchi antifurto nella loro abitazione? Non essendo un prodotto singolo, ma la composizione di diversi prodotti, è difficile definirlo. Sicuramente come si parte dalla porta blindata, quella diciamo che ormai sta arrivando nelle case di tutti ed è intorno ai 1.500-2.000 quelle certificate, le porte certificate, quelle vere, quelle anche con lo spioncino che funziona bene, cioè, però un buon allarme, una piccola casa di 50 metri quadrati non è più costoso come prima, cioè non arriva a diverse migliaia di euro, anzi sta sotto, basta che sia progettato bene, tutto su misura. Quindi si parte dalla porta blindata, questo è già un suggerimento molto utile, per poi andare a fare qualcosa qualcosa di un po' più complesso appunto all'interno dell'abitazione. E non comprare su internet. Poi ci arriviamo su questo, perché ho trovato delle offerte fai da te veramente incredibili, e ci sono anche dei vademecum per poterli installare appunto in totale autonomia. Evidentemente c'è anche chi si improvvisa, però per la verità pensavo che il risparmio potesse essere più consistente, ma vedo che sotto i 300-350 euro non si va, tanto vale, se siamo lì Paola, allora avvalersi della consulenza professionista. Ecco, ottimo. Allora, sul tema degli antifurto andremo tra qualche minuto con Franco Del Conte, che ancora non ci ha raggiunto telefonicamente. Andiamo però invece all'installazione invece dell'impianto di condizionamento. Prima di andare a Luca Falco, Paola, invece da questo punto di vista le famiglie spendono un po' di più rispetto all'antifurto? Ormai tutte le case ce l'hanno, oppure ancora c'è chi si avvale del ventilatore? Ah, ti leggo cosa ci suggerisce un ascoltatore. Io uso un ventilatore diretto verso una bacinella piena di ghiaccio, funziona ed è più economico. E vabbè, insomma. Bravissimo. Ecco. Beh, Luca Falco non sarà tanto contento. Andando invece all'impianto di condizionamento, insomma, qua che spese sostengono le famiglie italiane? Oggi sono disponibili dei condizionatori fissi, ma efficienti, con la famosa etichetta energetica A++, a prezzi decisamente buoni, 700 euro, non di meno naturalmente, e basta comprarli nelle grandi superfici di vendita, e lì si trova anche l'installatore corretto che te lo installa ed è adeguatamente munito di tutte le certificazioni. Ecco, però i professionisti che in questo periodo sono molto impegnati ad installare impianti di condizionamento nelle case delle famiglie italiane sono alle prese con una serie di adempimenti che ci arrivano dal fatto che l'Italia ha recepito una direttiva europea. Perché voi vi chiederete, vi racconto tutto questo, che cosa ce ne importa appunto della legge? Ve ne importa perché in realtà i professionisti, i cosiddetti frigoristi, stanno appunto sostenendo delle spese per certificare la propria professionalità con un patentino, e questa novità rischia di ricadere anche sulle tasche dei clienti appunto che richiedono il lavoro di questi installatori. Luca Falco allora ci racconta in cosa consiste questa normativa appunto che obbliga i frigoristi appunto ad avere questo patentino, e tra l'altro perché rischia di ricadere questa novità sui consumatori? Quanto costa prenderlo? Ha un costo fuori da ogni logica. Allora, questa normativa è una direttiva che arriva dall'Europa, però noi in Italia siamo sempre molto bravi a complicare le direttive europee, al posto che calarle sulle realtà produttive italiane, quindi adeguarle, noi inventiamo adempimenti ancora più pesanti. È un po' come se si giocasse a giochi senza frontiere, dove praticamente le aziende artigiane devono passare un percorso, attraversare un percorso, e siamo continuamente colpiti e bersagliati. È una cosa fuori da ogni logica. Praticamente noi siamo costretti a prendere un patentino, e quello può anche star bene, anzi ben venga la professionalità, ma questo patentino non è solo per l'operatore, ha un costo che intanto supera i 2.000 euro, è già quello un costo importante, poi ha un costo annuale di mantenimento. Ma questo patentino si prende con un esame, tra l'altro, perché vediamo se si capisce se questo costo è giustificato. Ah, ecco, cioè, perché non è che uno va, ecco, è una pratica da sbrigare in mezz'ora, si pagano 2.000 euro no, e via, no? No. Quantomeno c'è, perché no, è importante. No, c'è un corso, c'è un esame, ma quello, il corso e l'esame, la professionalità, quello va benissimo. Il problema è che troviamo assurdo che questa direttiva europea parlava di impianti che avessero un certo quantitativo di gas refrigerante, da 3 kg di refrigerante in su. Noi la applichiamo in Italia dal più piccolo frigorifero in su, quindi si rientrano dentro le automobili. Quindi mi sta dicendo che nella sostanza, secondo, come dire, l'ottica della direttiva europea, questo patentino dovrebbero prenderlo quei professionisti che vanno ad installare degli impianti di condizionamento magari di natura industriale, un po' più grandi, invece qua noi l'abbiamo estesa. Esatto, l'abbiamo estesa a tutti. Oltretutto abbiamo anche deciso in Italia che debba avere il patentino l'operatore, ma anche l'azienda, ovvero un artigiano che lavora da solo, per esempio, deve certificare se stesso come operatore e poi se stesso come azienda. E quindi cosa fa? Due esami? Praticamente fa un esame come operatore e poi deve eseguire una certificazione aziendale con un costo annuale continuo. Allora, veramente. E certo, e allora qua solleviamo insomma questa polemica palesemente con la modalità con cui lo Stato italiano ha recepito questa direttiva. Detto questo, perché voi ritenete che questo costo che gli installatori appunto devono sostenere rischia di spalmarsi anche sul cliente finale? Che colpa ne ha una persona se appunto il professionista deve certificarsi? Cioè, comunque l'impianto di condizionamento che si vende è quello, il lavoro che si deve fare all'interno della casa è sempre quello, esatto, non cambia alla luce del patentino. Purtroppo, è vero dottoressa, però aumentando purtroppo il costo del lavoro aumenta anche di conseguenza l'importo finale, cioè sono andate ad aumentare i costi vivi per l'azienda, non sono andate a diminuire il costo del lavoro. Sì, ma è una spesa una tantum quella, perché perché c'è una certificazione che continua ogni anno, c'è un importo che va pagato tutti gli anni. Sono quindi l'esame costa praticamente 2.000 euro e poi una è come un'iscrizione ad un albo sostanzialmente che va pagato ogni anno. Esatto. Capisco. E anche il numero di operatori certificati va in funzione del fatturato e del numero di impianti che si installano. Mm-mm. Allora, c'è un ascoltatore che ci scrive, adesso Falco questo SMS me lo traduce lei, perché come ben sa io non ne capisco molto, perché non parlate, perché non so se stiamo parlando della stessa cosa, dell'assurdo della denuncia CFC e gas refrigeranti sopra i 3 kg? Quello di cui stiamo parlando. Ecco, perfetto, ecco qua, allora l'ascoltatore o non ci eravamo fatti capire noi oppure ci ha colto, appunto ha preso la diretta con qualche minuto di ritardo. Perché poi ne hanno aggiunto un'altra, adesso io vorrei parlare poi degli impianti, ma ne hanno aggiunto un'altra, un registro entro il 31 maggio per cui tutti gli operatori che abbiano installato al proprio interno, quindi un albergo, un ristorante, una cella frigo con più di 3 kg di gas devono fare devono tenere un registro, ma veramente dei costi burocratici fuori da ogni logica. Capisco, cioè. E quindi è chiaro che se un impianto di condizionamento per una casa media di una media famiglia italiana ci può costare, che ne so, faccio un prezzo così volante, 1.500 euro, da presto potrebbe costarci 1.800, anche 2.000, proprio perché appunto chiaramente siamo chiamati come consumatori anche a incaricarci di queste spese. A proposito di costi, Falco, io ho fatto un esempio del tutto casuale, ma per un appartamento di 80-100 metri quadri, che tipo di investimento medio va fatto per un buon impianto di condizionamento? Allora, un buon impianto di condizionamento, se lei considera che... Poi parleremo dei consumi, che è tutta un'altra partita quella. Sì, sì. Allora, potremmo andare sui 4.000-4.500 euro per il costo della macchina, poi varia anche molto dalla tipologia di impianto. E io prediligo, ma per una questione personale come azienda mia, gli impianti che abbiano un... unità interna per ogni singola stanza e quelli hanno un costo più alto. Poi esistono impianti dove c'è un'unica macchina interna con dei canali che distribuiscono l'aria trattata nelle varie stanze e quelli hanno un costo inferiore. Quindi considerate che l'impianto d'aria condizionata è un impianto che va cucito sull'abitazione, non è un qualcosa di estemporaneo, o caldo, vado al supermercato, compro un apparecchio e me lo faccio installare. Quello può essere un modo per tamponare un'emergenza, ma un impianto d'aria condizionata è un impianto che, se ben dimensionato e ben installato, migliora la qualità della vita dell'abitazione. Non ci sono, secondo me, ecco, degli standard generali. È chiaro che bisogna vedere le caratteristiche dell'abitazione e ogni professionista è capace di dire, chiaramente ha le qualità per dire è meglio questo impianto piuttosto che quest'altro per le caratteristiche della tua casa. Senza, volevo ritornare per un attimo a quell'esame di cui ci parlava prima, perché un ascoltatore dice: ma che dice 2.000 euro? L'esame ha un costo intorno ai 600. Non è che pure voi professionisti adesso, insomma, vi inventate che costa un po' di più per farcelo pagare a noi, Falco? No, allora l'esame costa circa tra i 600 e 700 euro, poi c'è anche un corso che bisogna fare, se uno è capace, è bravo, è professionale e può fare solo l'esame, non ha bisogno di tenere un corso prima, però l'esame non è un esame semplice, per cui spesso le aziende di formazione tengono dei costi molto alti. Ora, giusto per darle un'idea, i primi costi erano molto più alti, come con Fartigianato ci siamo impuntati per cercare di contingentare il prezzo, però ripeto, non è solo il costo per la singola persona, per il singolo operatore, ma anche per l'azienda, cioè io non devo certificare solo la singola persona, ma anche l'azienda. Io spero che con tutte le lamentele che abbiamo fatto al Ministero in forma scritta, le si aziende possa di certificazione vadano a ritoccare verso il basso i prezzi. Io lo spero di cuore, perché è un costo veramente importante. Benissimo. Per le imprese. Allora, ci torneremo su questi aspetti nella seconda parte del programma, poi naturalmente ritorneremo anche invece alle spese che bisogna sostenere per un'installazione chiaramente di un impianto di qualità e soprattutto affronteremo il tema dei consumi. Intanto saluto, perché ci ha raggiunto telefonicamente, Franco Del Conte, vicepresidente di AIPROS, l'Associazione Italiana Professionisti della Sicurezza, per cui Del Conte, aspettandola, non abbiamo ancora aperto in maniera appunto più incisiva il tema della sicurezza della casa e dell'installazione degli impianti, però le dico subito, così la faccio arrabbiare immediatamente. Danilo ci scrive: perché non comprare su, perché io ho già introdotto l'argomento mentre l'aspettavamo, perché non comprare su internet l'antifurto? Io l'ho fatto e sono felicissimo. Eccoci qua, Annalisa che ci scrive: vendiamo antifurti su internet, siamo nel 2013, le informazioni si fruiscono online, siete dei retrogradi. perché appunto abbiamo invitato a non comprare su internet l'antifurto. Allora, chiaramente Annalisa, pieno rispetto per la sua attività, e io sono assolutamente certa che lei venda del materiale, degli impianti di totale appunto altissima professionalità, di elevato standard tecnico. Detto questo, il tema è che io come faccio a comprare un antifurto su internet, ad installarlo a casa? Se poi c'è tutta questa gente in giro che è capace di fare un lavoro di questo genere, beh, ben venga, che le devo dire? Io sono un po' scettica. Detto questo, poi però non si può parlare, perché pare sempre che uno prende le difese appunto degli ospiti che si porta in trasmissione, invece non è affatto così. Allora, Franco Del Conte, ci dica, togliamoci subito questo sassolino dalla scarpa della questione dell'acquisto. Certamente sì, perché io un sassolino un macigno nelle vostre scarpe, appunto. Ma se ne distribuiscono tanti appunto attraverso l'online, che poi magari, che ne so, uno su suggerimento anche di un buon professionista può trovare anche un medesimo apparecchio che comprerebbe attraverso un negozio e magari spende un po' meno. Poi però insomma su internet c'è davvero un po' di tutto, perché mi sono stampata su internet delle offerte, ma insomma sono poco più di tre fili e una scatoletta. No, anzi non ci sono nemmeno più i fili, perché ormai si parla tutto di wireless, per cui si tratta tutto di apparecchiature da installare dove ti pare, che sono collegate alla centrale tramite alla rete wireless della centrale. Eccolo, il kit che ho trovato io è semplice, cioè ha una centrale, dei sensori, dei dispositivi di comando, e io vorrei vedermi a metterli insieme questi qua. Vabbè. No, ma magari sono anche semplici da mettere insieme, però distinguiamo da un impianto di sicurezza, perché l'impianto di sicurezza ti deve dare sicurezza quando è il momento. E magari quando è il momento le batterie sono scariche perché sono cinesi, la centrale non ha funzionato perché è cinese. Chiunque di noi ha una esperienza di regalini fatti ai nipotini o ai figli che compra al mercatino cinese, basta il pacchetto, è fatto bene, però quando lo vai a far funzionare non funziona mai niente. Quindi è un oggetto comprato a tuo rischio e pericolo. E siccome stiamo parlando di sicurezza, mi dispiace doverlo dire, ma la Cina non mi dà l'affidabilità che mi dà un'apparecchiatura IMQ italiana o di VN tedesca. Per cui ciò premesso, ben venga, chi vuole fare il suo impianto da solo è felice di farlo, spenderà di meno, però dobbiamo uscire dall'equivoco, certo. È un discorso del fai da te, quindi non è un fatto professionale. Certo, no, tra l'altro guardi, perché siccome voglio portarla fino alla fine questa polemica, Marco, nel numero degli sms l'ascoltatore Dalino, che ci racconta che l'ha comprato su internet, appunto si è candidato ad intervenire, magari se riesci a pescarlo lo facciamo intervenire appunto volentieri. Intanto però Del Conte, le faccio sentire una testimonianza di Antonio da Verbania, che per la verità, pur avendo avuto un contatto diretto e fisico appunto con degli installatori, ha avuto anche lui la sua brava disavventura. Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica. Qui parliamo di porte. Sì. Perché praticamente a un certo punto, un paio d'anni fa, abbiamo visto sulla bacheca condominiale un volantino promozionale dove si proponeva un intervento per, diciamo, riqualificare il proprio portoncino, che già era un portoncino blindato di prima generazione, insomma, comunque. E allora, diciamo, mia moglie si è fatta incuriosire e io in giro per lavoro, insomma, questo intervento è stato fatto. Io avevo delle perplessità perché, tant'è vero che sono andato a consultare un serramentista, e ci si chiedeva ma che intervento possono fare non invasivo, cioè così di insomma l'intervento è consistito di fatto in una foratura dove è stato inserito un elemento di chiusura aggiuntivo con una chiave, un brevetto particolare che loro chiamavano Biroblock, una cosa che loro praticamente fissata alla carpenteria della porta con delle viti irrisorie e con dei fori che poi andavano a inserirsi nel telaio della porta, no? E questo al costo di, con uno sconto super, diciamo, promozionale di 800 euro. Ora, per fortuna che era tanto promozionale per fare un foro. Quando io sono rientrato ho visto il lavoro fatto, ci sono rimasto veramente male, perché poi mi intendo di carpenteria, per cui ho avuto una piccola discussione. Vabbè, insomma, ecco, quindi Antonio, stare attenti, bravo. Io stare attenti e rivolgersi a chi installa porte, perché se uno magari ci aggiunge qualche centinaio di euro in più, magari cambia il portoncino e mette un portoncino più moderno con esatto. I nuovi sistemi di chiave piuttosto di chiusura, che intervenire su quello che segna. E mi chiedo come le associazioni di categoria di gente che costruisce porte possono permettere. Guardi Antonio, per la verità non lo permettono loro, perché non le dico, appunto ce lo raccontava anche prima Luca Falco, per la verità per alzare i requisiti professionali la normativa per la verità li insegue ovunque e sono molto attenti, però ecco, siccome la madre dei furbi è sempre incinta, escono anche appunto queste situazioni. Del Conte, non so se lei vuole intervenire sul tema della ma porta. Certo che sì, con molto ecco, piacere, perché io sorrido quando sento queste cose, le ho viste e sentite, viste troppe no, a posteriori. Noi siamo un popolo di furbi, per cui tutte le volte vogliamo risparmiare qualcosa, il nostro obiettivo è quello di essere più bravi degli altri, è tutto già regolamentato, non ci dobbiamo inventare niente. Allora, italiano, vuoi, consumatore italiano, vuoi rispettare le regole o non vuoi rispettare le regole? Facciamo questo grande discrimine, mettiamoci noi, almeno in questa trasmissione mi auguro, nel rispettare le regole, benissimo. Allora, esiste in Italia una normativa che dice che gli impianti, tutti gli impianti, dall'impianto elettrico, l'impianto di condizionamento, a quello di cui parlavamo, gli impianti di sicurezza, tutti, compreso l'idrico sanitario della sua tassa del gabinetto, mi scusi se lo dico, prego, sono con obbligo di progetto. Allora voglio dire, un consumatore italiano in regola deve andare da un'impresa, che sia o artigiana o CNA o Camera di Commercio, no? e farsi fare un progetto, non lo sta chiedendo per cortesia, perché a fronte della fattura che sarà emessa, il consumatore italiano in regola avrà un progetto che è obbligatorio, e quindi sul progetto ci si confronta, si può parlare su fatti concreti, su disegni, su specifiche, discutere di questo progetto, approvarlo e fare l'ordine. A questo punto l'impianto che sarà realizzato secondo questo progetto. Su questo l'installatore in regola, e quindi al consumatore in regola, darà la sua dichiarazione quindi di conformità. Quindi è del tutto irricevibile. Tutte le normative che ha rispettato. Certo, è del tutto irricevibile la proposta, peraltro divulgata attraverso un volantino pubblicitario, di chi ti dice ti intervengo nella serratura e te la metto in sicurezza. Non si può, anche una porta che è già preinstallata, ovviamente se si vuole intervenire solo su quella, ha bisogno anche questa appunto di un progetto iniziale. Figuriamoci, ma questo non vuol dire che non esistono le norme che prevedono gli standard di sicurezza sulle porte, ma quale pinco pallo te la rilascia questa dichiarazione se facciamo tutto fuori busta? Questo è il punto, infatti. Allora, Paola Guidi, volevo chiederti un commento sulle testimonianze che hai sentito fino a questo momento, però ecco, magari volevo anche rassicurare gli ascoltatori, perché effettivamente, anche se mi rendo conto che qualche volta ci si scoraggi un po' e ci sembra che sia tutto un po' una giungla selvaggia, in realtà ci sono delle regolamentazioni precise e bisogna anche appunto attraverso queste individuare i professionisti, e però comunque le pubblicità ci sono, perché io stessa tutti i giorni in cui torno a casa trovo nella mia cassetta della posta tanta pubblicità di chi si propone naturalmente per le ristrutturazioni, per le tinteggiature, per rifare un sacco di lavori, ma penso che sia tutto regolare anche questo, perché ogni professionista trova il modo che può per farsi un po' di pubblicità. La differenza rispetto a chi professionista non è ed è improvvisato è proprio subito nel contatto, è possibile stabilirla, basta fargli delle domande precise. Allora, che sconti ho, quali sono le agevolazioni fiscali che mi fate nell'ambito della ristrutturazione? Si capisce subito se uno è pronto e qualificato. Primo, secondo, su internet il grande rischio a quattro diversi punti, e poi per il resto funziona tutto benissimo, per carità. Cerchiamo di tener conto che occorrono 2 anni di garanzia. Chi mi garantisce che l'impianto, l'oggetto, il dispositivo poi viene assistito a manutenzione regolare? Deve averla la manutenzione, qualsiasi dispositivo elettronico, elettrotecnico. E poi chi lo installa? Cioè, forse non lo sanno i consumatori sprovveduti. Quando comprano un rivelatore deve essere tarato sull'ambiente, che può essere avere forme diverse, esigenze diverse, mobili, e questo è un problema che si aggiunge. Quindi basta vedere se uno è professionista, se uno ha un suo negozio, uno studio, e soprattutto se fa il progetto. Deve fare il progettino. E certo, quindi non venire lì, fare l'intervento con la sua cassetta appunto degli attrezzi, esatto, perché chiaramente questo non è un intervento di tipo professionale. Allora, prima di ritornare di nuovo sugli impianti di sicurezza, abbiamo raggiunto appunto Danilo da Bergamo, c'è anche Lorenzo dalla provincia appunto di Rimini che vuole intervenire, però volevo ritornare per un attimo anche al tema del condizionatore, appunto per rinfrescarci un po', visto che sta arrivando il caldo torrido nei prossimi giorni. Peraltro, Luca Falco, una volta installato, ci sono molti ascoltatori che ci segnalano che ci ricordano che anche la manutenzione va fatta nell'impianto di condizionamento, quindi non è che una volta messo lì, solo perché lo accendiamo per 2 mesi l'anno, poi ce ne dobbiamo dimenticare. Mi dica un po' quello che devo fare anch'io. Allora, la cosa principale è la manutenzione che ogni utente deve fare alla propria apparecchiatura, ovvero pulirsi quantomeno i filtri dalla polvere. Poi sarebbe utile e consigliabile, almeno una volta prima dell'inizio della stagione, far verificare che l'impianto sia in efficienza, perché il circuito frigorifero all'interno di un compressore. Questo compressore viene raffreddato anche dal gas contenuto all'interno di questo circuito. Se per qualche motivo l'unità esterna non è ben pulita o non c'è un buon scambio d'aria, il compressore si surriscalda e la vita di questa apparecchiatura, che supererebbe abbondantemente i 15 anni, rischia di ridursi. Ecco, siccome spendiamo anche qualche migliaio di euro appunto per farlo, magari ecco, è bene ricordarsi ogni anno di fare questo piccolo check-up. Poi, esatto, una cosa importante ancora, se posso ricordare, è che al momento dell'installazione non bisogna mai scegliere la più semplice, ma bisogna scegliere la più semplice per la manutenzione. Perché a volte fare la manutenzione su un'unità esterna diventa veramente difficile, cioè c'è l'obbligo di prendere addirittura le gru, perché vediamo delle unità esterne appese fuori dai davanzali e per operare non si può legare e lavorare. Certo, senta Falco, c'è questo suggerimento che ci dà questo ascoltatore, io lo raccolgo al volo, ci ricorda il fatto della manutenzione, l'ascoltatore che ci ricordava di appunto far eseguire una manutenzione annuale dell'impianto, e soprattutto le dice: ho sottoscritto, anche per capire quanto ci costa poi questo check-up annuale, un contratto decennale di manutenzione ordinaria che ho chiesto io. Che ne pensa? Secondo me è una persona molto oculata, perché oltretutto se uno fissa una manutenzione a lungo periodo, per un lungo periodo, l'azienda, per tenersi un cliente fedele e stretto, è capace anche di fare degli sconti maggiori. Esatto, magari insomma, esatto, infatti se si stabilisce sin dall'inizio. Assolutamente oculata, però purtroppo per la manutenzione noi italiani siamo sempre se non si costringe la legge evitiamo di farla. Esatto, quindi l'auto o poco altro, insomma la caldaia, che è un altro bello, quante puntate abbiamo fatto Falco su quell'argomento, anzi poi la chiamo in privato perché le devo chiedere una cosa sull'impianto di casa mia. Allora, Danilo da Bergamo, buongiorno, è l'ascoltatore che ci ha ravvivato dall'inizio del programma perché ci ha raccontato che il suo impianto antifurto l'ha comprato su internet, bello, contento. Danilo, le posso chiedere però quanto ha speso e quanto ritiene anche di aver risparmiato? Perché ha fatto questa scelta? Buongiorno a tutti. Per antifurto ho speso intorno ai 1200 euro. Ah, ecco, quindi non per è stata proprio una cosa da 150 euro e via. Ecco, comunque assolutamente no, infatti a mio parere non è da demonizzare internet, ma ci vuole un po' di buon senso. Esatto. È chiaro che a stesso livello di antifurto sulla carta, se ce n'è uno che costa 200 euro e l'altro che costa 900, la differenza c'è certamente, nessuno regala nulla. Oltretutto, dietro i siti internet ci sono anche delle persone. Io onestamente ho inviato la piantina della casa, ho discusso con questa persona come realizzare l'antifurto, ho speso 1200 euro e ho usufruito anche di contributi che al tempo erano del 50%. Senta Danilo, ma se lei si fosse avvalso di un professionista, di un tecnico che fosse venuto a casa sua appunto, ritiene che avrebbe speso molto di più? Intorno ai 2000. Ah beh, 800 euro di differenza, effettivamente ai giorni nostri non è che ci possiamo sputare sopra. Danilo, grazie per averci scritto e per aver colto appunto l'invito alla telefonata. Vorrei sentire anche Lorenzo da Rimini, così poi Franco Del Conte, così spara tutte le sue cartucce al termine delle telefonate. Lorenzo, buongiorno. Sì, buongiorno a voi signori. E una domanda sulle barriere anti-intrusione, quelle che hanno un raggio infrarosso che spara da una parte all'altra. Voi chiedi sono eludibili, se è vero che sono eludibili con strumenti che ne allargano le maglie e la persona si cade dentro, insomma, oppure se si possono deviare i viaggi. Seconda domanda, se sono nocive per la salute, questi raggi che continuamente funzionano quando uno è in casa sono nocivi. Certo, Lorenzo, beh, speriamo di no, altrimenti per quale motivo avrebbero messo in commercio appunto una novità di questo tipo. Il tema vero è se sono appunto eludibili, visto che i ladri anche sono sempre più furbi, più scaltri e più veloci. Allora, Franco Del Conte, ha sentito l'ascoltatore che ha comprato l'impianto su internet, comunque si è ben documentato, non ha fatto il primo acquisto. Lui aveva molto chiara l'idea dell'impianto che voleva comprare. Certo che sì. ma mi viene sempre la battuta che la delinquenza è molto ben organizzata, invece l'utente finale è molto poco organizzato, quindi loro sanno quello che vogliono fare e noi lo sappiamo un po' di meno. Allora, sulla prima domanda, lui ha comprato su internet, la prima domanda che io faccio, il progetto è stato presentato da qualcuno, qualcuno gli ha rilasciato una dichiarazione di conformità sull'impianto che lui ha realizzato. Lui ha detto che tutto questo è successo. Qualora non funzionasse, perché il primo lato che c'era secondo me lo buca, qualora non funzionasse si può rivolgere a qualcuno che, a cui chiedere tutela per l'impianto che non è stato funzionalmente corretto. Ecco, tutte queste domande prima di spendere soldi noi ce le dovremmo fare, ma tutte queste domande la risposta c'è, perché esiste un DM 37 del 2008 che prescrive come si fanno gli impianti e prescrive tutta una serie di regole e di procedure da seguire, tra cui quello che dicevo prima del progetto che è obbligatorio, e la figura del responsabile tecnico. Benissimo, però per come ce la mette lei del Conte, io capisco perfettamente le sue perplessità, è come se dicesse che tutti i rivenditori online sono fuori legge, ma io non credo che sia così. Non sono installatori, stiamo parlando adesso solo di materiale, ma un impianto è fatto da ben altro. Non è solo il materiale. Il materiale quindi uno lo compra dove gli pare, ma chiaramente l'installatore che lo mette in opera risponde di questo materiale. Se invece io compro il materiale e lo faccio mettere in opera da un installatore, non ha alcuna responsabilità sul materiale che io gli fornisco. Questo è il primo punto. Sì, andiamo alle barriere antintrusione. Sulle barriere antintrusione, lei l'ha detto all'inizio, a cui io mi sono collegato, cioè ogni dispositivo ha il suo buco, no? Per cui chiaramente non fanno male alla salute perché sono secondo le normative europee, e tocca vedere se sono secondo le normative europee, perché magari c'è una barriera fatta in Indocina che magari non rispetta le normative europee. Secondo punto. I raggi possono essere deflessi, ma siccome adesso le barriere sono intelligenti, se non mi arriva il raggio che mi aspetto, vado in falso allarme e quindi lo denuncio alla mia centrale. Quindi non è mai la tecnologia carente, la tecnologia è il sistema di sicurezza che si va a mettere in piedi, perché vede, quando finché parliamo di condizionatori io sento se esce il freddo e quindi sento se l'impianto è efficiente, non so se è sicuro o meno, però perché il discorso del condensante messo all'esterno, vorrei sapere qual è la dichiarazione di conformità della ditta che l'ha installato all'esterno e come l'ha installato, perché questo già non torna. Ma ritornando agli impianti di sicurezza, chiaramente se il mio impianto non ha funzionato, con chi me la prendo? Oggi esiste una legge bellissima in Italia, che è la legge 4 uscita a gennaio di quest'anno, del 2013, che ha introdotto in Italia le professioni non organizzate in ordini e collegi. Io sono un ingegnere, sono iscritto al mio ordine da molti decenni, no? E per cui io agisco secondo una professione regolamentata dallo Stato. Dal gennaio di quest'anno esistono un'altra serie di professionisti in Italia, che sono i professionisti secondo la legge 4, e sono altri tre tipi di professionisti, ne prendo uno solo, quello associativo, perché la mia è un'associazione di professionisti, è più da 30 anni sul mercato delle associazioni, perché si regge del fatto di aver inseguito sempre la professionalità dei soci. Le chiedo di essere un po' sintetico perché ho tante altre domande. Sì, prego, quindi prego. No, la faccio concludere su questa legge. Il professionista, parlavamo di impianti di sicurezza, il responsabile tecnico che fa il progetto deve essere un professionista qualificato, secondo questa legge 4. Quindi se io voglio sapere la mia impresa installatrice che tipo di qualità è, per esempio gli comincio a chiedere: ma chi è il tuo responsabile tecnico? Il consumatore deve saper fare le domande, questo è il punto, per avere delle risposte su cui confrontare. Io diciamo che deve anche appunto potersi fidare, perché io le ribadisco appunto per quante curiosità potrei avere appunto sull'impianto antifurto, è chiaro che l'unica cosa che mi interessa è che alla fine appunto scoraggi in ogni modo possibile l'ingresso appunto dei malviventi, ma non è che possa essere nella capacità di fare molte domande, per cui io è chiaro che avrei bisogno fondamentalmente della relazione diretta con il professionista. C'è però chi è appunto più preparato e quindi si avventura su internet e poi con successo. Luca Falco, anche i condizionatori appunto vengono comprati molto frequentemente su internet e poi si chiama appunto un installatore per appunto magari installare un impianto che non ha venduto direttamente lui, e voi che ne pensate di questo? Allora, il mercato ormai è abbastanza avanti, per cui può capitare tranquillamente di essere chiamati per installare un climatizzatore fornito dal cliente. Ovviamente non ci si deve scandalizzare, è chiaro, infatti, che si preferisce fornire anche il materiale, perché quando rispondono alla mia installazione del materiale che ho installato e che sia adeguato al luogo di installazione, voglio essere sicuro di cosa installo. è chiaro che un installatore serio, un professionista serio, di fronte a una richiesta di installazione non conforme alle normative tecniche, si deve rifiutare. È chiaro che in momenti dove il lavoro manca è difficile a volte da dire caspita, me ne vado a casa, ma io gli stipendi li devo pagare o il piatto lo devo riempire. Però bisogna sempre essere coscienti dei rischi che si corrono per un'installazione di un'apparecchiatura sottodimensionata o che non funziona correttamente bene o che per assurdo può creare danni. Soprattutto nei condizionatori ci sono prodotti veramente di bassa qualità. Quando qualcosa costa molto poco bisogna pensarlo. I nostri nonni dicevano che più spende meno. Sì, esatto, lo diciamo in molti per la verità, poi però in questa fase, a dire il vero, andiamo a cercare tutte le offerte in ogni Internet settore. Costa meno perché viene meno il costo del distributore, certamente. Quindi a volte la differenza è data da quella, ma non può essere il 100% in Senta meno. Falco, andiamo un po' invece all'utilizzo, perché il condizionatore ce l'ha già, e cosa deve fare per stare fresco in casa senza far lievitare esageratamente la bolletta dell'energia? Come deve consumarlo, come deve utilizzare appunto per il consumo correttamente il condizionatore? È importante vivere in ambienti freschi e secchi, non freddi e umidi, per cui è importante non aumentare troppo la differenza tra dentro e fuori. Cioè, se io fuori ho 30 gradi, non devo tenere in casa 18 gradi. Beh, certo che adesso che ne arrivano 40, difficilmente le persone terranno 38 gradi in casa, Falco. No, quello sì, però era esageravo, era un iperbole. Per cui consideriamo 5 gradi in meno, ma non di più, nel senso che io 30 gradi fuori tengo 25 dentro, o 35 gradi fuori tengo 30 gradi dentro. È importante, soprattutto quando fa molto caldo, tenerlo per più tempo acceso a una minima velocità per far sì che vada ad abbassare costantemente l'umidità ambientale. Quindi non accenderlo un'ora, fargli fare il picco e poi spegnerlo, ecco, come un po' funziona anche per il riscaldamento naturalmente nel corso dell'inverno. Esatto, sennò poi male al collo, male alle giunture, ecco, diciamo, esatto, che già che siamo un po' tutti malandati, eccetera. Senta, allora, devo ritornare di nuovo agli antifurto, cerco di mettere dentro due ascoltatori che però mi devono promettere di essere telegrafici. Andrea dalla provincia di Ancona, buongiorno, rapido, rapido. Sì, buongiorno, io sono un distributore di antifurti e vendiamo online, ne vendiamo tantissimi e obiettivamente siamo molto rammaricati di aver sentito quello che ha detto, adesso non ricordo il signore, perché comunque le batterie non sono cinesi, le batterie vengono fornite come batterie demo. Abbiamo certamente estremizzato, Andrea, però abbiamo anche un po' difeso il commercio online, per quindi, carità. No, dico questo, in un momento di mercato tale noi stessi rivendiamo a rivenditori che poi ricaricano il loro sopra e allarmi da 350 euro diventano da 1000, quindi non generalizzerei molto. Certamente. E il signore credo che forse non ha, non lo so, però se forse sa che tutto quello che riguarda l'elettronica proviene dalla Cina, anche l'iPhone o altre cose. Andrea, tutto. grazie mille, purtroppo devo chiudere, non riesco a sentire Pierangelo da Bergamo, visto che vi siete scaldati così tanto perché la temperatura è pure alta, ritorneremo sul tema dei condizionatori ma soprattutto degli antifurto, perché vedo appunto che vi ha scatenato davvero notevolmente. Intanto io ringrazio molto Paola Guidi, Franco Del Conte di Aipros per essere stati con noi e Luca Falco di Confartigianato. Con Salvadanaio noi invece torniamo domani. Grazie a Marco Lombardo per l'aiuto in redazione, Filippo Auregine in assistenza tecnica. Arriva la sigla. Buona giornata domani.